Benché l'Indonesia sia il paese musulmano più popoloso del mondo, non esiste un'ipoteca islamica sulle elezioni politiche che si tengono oggi in questo arcipelago di 220 milioni di abitanti e dove 9 cittadini su 10 seguono con maggior o minor passione il dettato coranico. Lo scontro elettorale è in realtà polarizzato soprattutto tra figure laiche, l'attuale presidente Megawati Sukarno Putri e i diversi candidati del Golkar, il partito in realtà una sorta di associazione tra rappresentanti di corporazioni e professioni, tra cui primeggia l'esercito, nato con la dittatura di Suharto, l'uomo che per 6 lustri dalla metà degli anni 60 al 1989 aveva retto col pugno di ferro le sorti del paese. Finita la dittatura, le prime elezioni democratiche avevano premiato il partito di Mega, consegnandole prima la vicepresidenza e poi la presidenza, ma adesso i partiti che supereranno il 3% potranno presentare i loro candidati alla prima elezione diretta del capo dello Stato che si svolgerà a luglio. I partiti islamici sono molti e divisi, hanno poca fortuna. Quanto a Megawati ha strizzato l'occhiolino ai militari in questo ultimo anno, ma potrebbe non esserle bastato. Al Golkar, un partito che resta all'ombra del vecchio dittatore, potrebbe giovare invece l'effetto nostalgia di chi pensa che in fondo si stava meglio quando si stava peggio. Il Golkar però ha molti candidati e tutti piuttosto controversi, tra questi il generale Wiranto, ex luogotenente del dittatore ed ex ministro della difesa ai tempi del referendum di Timor-Est. È ricercato da un tribunale dell'ONU per crimini contro l'umanità, imbarazzante per un futuro presidente. Emanuele Giordana, lettera 22 a Bisnet.